perché titubanze siano vere e avvengano, io canto in punto ombroso e netto. Soavi lontananze sono e ritornando il luogo opaco e aperto, te sempre che hai vaporose ciglia aspetto. Un corpo vaporoso, discinto in due, era di gioia e di gloria. Un ciglio al suo risveglio, residuo terso, teso, di uno che si salva o che ti chiama. Mi siedo fra lei e me. Misuro un ricordo. Uccelli sono glabri nella nuda siepe. Una luce gentile scende e minutamente, lentamente, l'età dell'oro. Sperduto allo specchio, attentamente sfioro. Ella è qual è nitidamente. Attende quale ch'io sono. Ancora m'appoggio alla carne viva ombrosa del bosco, così cadente, monologo esatto, come nel sottosuolo arpeggio, monotono, cupo, è una voce. Qua e là è l'apice di una gioia. Oh, questa è la voce tua, e continuamente in attesa, continuamente svolazza. La lievità commosse le cose. So di una bambina cui le giunture erano fini e simili alle lacrime. E quale filo acerbo di sorriso e di ozio nella luce del sole in successione, la sollecitudine del corso il suo corpo lambiva. So, ma non troppo ormai più di quanto era una volta una vera gioia. E di notte curva e opaca era la tua voce che discendeva non più veduta dalla mano alla radice leggera del tuo fianco. La lievità commosse le cose. Da un'isola nasceva una gonna. Era certo un miraggio. Così miserita la gioia nella severità delle tue parole. Lunghi cigli dormenti, rosea, erano la cima di un monte o d'un raggio. La faccia triste, pallida della memoria, era la prima eco apparsa e distesa opacamente sulle acque della notte. Giunta era al fine ad uno sguardo di un silenzio pienamente felice quanto un duro, pianamente d'aria dono, violentemente la scuote. E parlò di sé, che ebbe cigli chiusi alla brezza, fu sveglio, o una donna, o meglio, gravemente volto alla bellezza delle cose, liquida conobbe la tristezza stellante del suo volto. Volevo appropriarmi della voce tua, o della tua voce cupa di cenere, o della solidità della carne. O questa è una preghiera, o una presaga bufera. Mi riprometto di richiamarti a gran voce, con veloce disattenzione. O questa è la fine, il silenzio di tutto. Ella ha anche un corpo. Un corpo violento. Nella luce della chiarità fantastica. Io non ti sapevo così erma. Io non sapevo di una tiepida veste. Così arduo, arido il calore tiepido di tutti i tuoi occhi che si sparsero dalla palpebra alla mano nel calore beato di una delusa, disillusa tua poesia. E un viso era tenero o una tenera spoglia. Sapevo quanto vano era essere folle alla luce irruenta, e questo piccolo bosco e le luci distese dove un piccolo corpo aereo avevi nascosto. Il tuo cuore emerso da una ghiacciaia, povero sopra ogni altra cosa povera, udì celeste una distanza, se un canto dondola o sale opaco e casto da oscure meste origini alla gola. Se risuscita morte, essa violenta dà. Tu eri rosea ed avida, eppure grigia sulla gota viva, odorosa, esangue, languida e morente. Una fiamma era pure la tua amarezza nella tristezza della sera. Io non sapevo di te dire, nella lucida onda, una sola parola. Ora tu sei ferma sopra una luce buona, e la sponda lontana ti guarda al fumo riflesso della luna. Guarda, guarda ora la tua fortuna, non essere più sola. questa oscura distanza s'alterna ora coi boschi o la luna o lontano si squarcia. Non essere più sola, senz'ala. Dentro lo scheletro, nuda la sua gola, sai quanta infanzia era uno screzio? Ritorna all'odola, la vena non è più nuda, non è più sola. Chiusa nube odorosa sul tardi, era uno screzio, ritorna all'odola. Forse con una piccola canzone canora sul fiato ti avevo preso al margine. Oh, questo fiato grigio era povero. Ella una volta passò, siderea e vespertina, con un gran cuore rivolto al cuore dell'alba. Ella passò che era inutile attendere. E ti guardo di moto in moto, con un volto diversa, i tuoi capelli a ciocca, come una nuvola addolorata dell'aria. Dopo la meraviglia, passò simile a se stesso un misterioso accordo, un ricordo. Sfiorò la gloria, la tua speranza o la tua ultima volontà di essere. Sul viso cadde il tuo sonno plumbeo e non più lontana sopra una ghiacciaia l'ora ferma del giorno. L'aria è un ricordo, e perché ti sapevo strana, sì, come un sogno notturno, un arpeggio di un mirato accordo. Miriadi di uccelli vagano soli, toccano lo squallore acre di giugno. Oh, sposata, tu sei quale arco freddo alle parole, al secco sorriso sereno. Viva e trepida una pupilla è il segno, la tua presenza è pure un desiderio, e purché ella sia vera e non vana, è una faticosa radice immersa nel tutto, nell'ordine della stessa calma. Ma passeggiando di nottetempo odo questo cinguettio, e una lodola è come una fronda, una luce calata dal desiderio del cielo. Ma vedi, sono costretto anch'io, e ai piedi umile è una tomba, e quando spira vento autunnale, sono vento anch'io. Non è più tempesta, la festa dei tuoi occhi buoni suole accadere. Un viso scarno ondeggia, statuaria è l'effigie dei tuoi giorni poveri. Bendano la terra, umili i tuoi occhi, un persuasivo candore erra od era, si apre o si serra sopra i tuoi denti. Vedi il reliquato della materia sorgere a te sempre più in alto, e tu non puoi più giungere sullo scompiglio di una linea da calmo ramo a caldo canto, lungo una linea erma cinta di vita. Insolitamente era una festa, una sete di rose vergini e rosse, e qui si annulla in un grembo. Porgere la mano alla vita non era poi altro che un senso calmo di di cose. E il lume cerulo e l'acqua rosea stasera. Ma tu sei fitta in cielo, come acqua che non si versava in pioggia. E il mormorio dell'acqua t'addorme sulla criniera selvaggia delle rocce. Ma tu sei mite cerula, come acqua che guazza forte in uno in colloquio con le rose, con questa voce rauca o col vento che viene dal sud. Tu l'Appennino contemplavi dalla sedia, e che era questo screzio di cui io non ero parte. Tu in minutissime, piccolissime ansie lo facevi di un perduto andirivieni, e questo per la liquida ricchezza della sommità dei boschi. Ma tu di chi facevi parte in trasparenza? E tu, piccola, dritta, scolpita stavi alla sedia. E questo è un po' troppo, il racconto della tua vaporosa storia. E di una vena agile il disegno, di cui a gran voce spesso racconto. Era un dovere, un punto chiaro, un canto cauto, un coro, un inno sacro che si ebbe quando il sorriso fu il suo sonno, l'ebbrezza sonora fu sul verde. La gioventù era dentro un'iride nascosta. Erano nel soffio caldo dei suoi riflessi le promesse, pure l'incauto incontro delle acque, vedi, di piccole scintille riempie la vastità glauca dei tuoi occhi nella lontananza del sogno, delle cose che non furono, nel sonno che ti prese. Se muta non sai quel che fittamente era od era una donna, oggi era un corpo ed ora era un luogo. Filtravano acque, raggi paludosi amaramente. A settembre erano un rovo e acqua da un cavo tronco erano i capelli sul tuo volto al tramonto. Stanco stagnavo subdolamente nella luce smossa, al casto canto strappavo e felidi leggere. Tu eri bionda nella gota. Se ti siedi e mi seguo accanto ti rincorro anch'io nel tempo in cui rivedo la tua vita, la tua sete umida, il tuo essere simile al tuo fianco, entro cui si spandeva l'eco dei tuoi nuovi dì, calma e porosa. Saccrebbe la tua bocca d'acqua piovana e un lume era tenue, sospiro pieno del suo tempo e giunto, non s'accordava la tua strada. Non so che limiti, che lineamenti erano, un più o un meno, un moto, un crescere veloce del tuo tempo nel vano vuoto verso uno che ti amava. Vana tutti nel modo di essere, riprova, riposa, quieta, questa assopita, inerte, inintelligenza che era sul volto, e per essere nuova e non vera, ora ode ed indistintamente, lieve, curva, porosa, passa una foglia dall'unghia rosea, umida sull'orlo. Cava è inutile, inavvertitamente ritrovi dentro un poro o un passero una pura costellazione, in alto naviga rudimentale un'ala o un polso, non è concesso nulla, o una dolcezza una dopo l'altra, e non posso più muovermi. Ora so, guardo te stessa fraintesa sull'altra faccia distesa dell'orizzonte, tremolo e discosto. Oh, è passata distrattamente una ruga, una piega fievole, mutevolmente sola nel vortice del sonno, lungi da te, da me, nel senso del tempo più mite, nel corso più sereno e accosto. Com'ebbero nebbie nel primo clamore, mesta la strada, i tuoi sogni, e trafughino le ore, gli incendi, un soffuso vapore sui mandorli in fiore ritorna, e uno screzio ristagna. Ritorna soffice un eco, e come i ricordi passino, non so, e purché sia vero agli umani sguardi, il tuo cuore era un passero, caddero miti, mesti, pensieri, dal bianco del tuo sguardo, la solitudine, colorata in rosso, ti manda un raggio fine alle tempie, perché persino la gioia non più s'abbella, fraintendendo cose esatte sulle monotone erbe, poi cose acerbe erano nel cavo grigio della mano e nella nebbia fitta le tue parole dentro il mantello scuro dei pastori, era il suono dei poveri. E passò l'incantesimo che incastona, folle oscuro, in un raggio la guancia, alla notte ferma il tuo batticuore. Thank you. perché dà poveri i tuoi teneri occhi. Severa, una luce sorride, so quanto spazio arcuato mi separa lentamente da te. Intatta è la sera, tacita è l'ora, la terra arida erra su tante bruciate foglie. O sono io solo quel che respira? Lentamente discende su isole verde mare un alito algido boschivo, e tu sei discorde. Lente luci liquide cadono, lo zigomo quieto e la palpebra nel vuoto. Due a due fitte le stelle erano la vana gloria del cielo sulla gota. Forse di te non apprenderò che un piccolo screzio e quel che narrarono ai defunti i fiori e un regno di un silenzio felice da uomo a uomo per un caso strano. Di marzo si era o da fine gelida di anno, e se per più di un tempo scarno sono compiute tutte le tue cose che tu più non dici, non è più triste il tuo compleanno quanto quello di un altro. Che ebbe nella sua voce la voglia e un nome, sono un uomo meno puro di quanto un piccolo uragano raccolse nelle pause sparse e lente, silenti i suoi colori. Erano rose d'inverno per te messe in disparte che per un piccolo uragano abbellirò stasera. Quanto puoi, se le nuvole sono folli, non metterò a soqquadro un piccolo quadro triste era di fiori, quanto io sono per un silenzio puro, felice, che naufraga verso di te ora nel buio. Rigidamente inclina, beltà splendente alle tue dita. Non è più cortina funebre, dall'alba al tuo tramonto, celeste che non amo. Da un pezzo è già finita. Da grigi vetri qualcosa accadrà nelle mani ondose. L'anima era tersa, tesa al suo domani. Forse era dentro un piccolo cristallo. E perché molte cose avvennero, non chiedo ormai di più. O essere la sabbia immutata, o un bacio di neve nella nebbia, o un passo tuo innocente. Nulla è già mutato sul mio passo, nella mia faccia di soldato, nel mio vestito lacero, nella tua festa piccola di un ballo. O nulla mai ti ho dato. Una pianta era nella selva già distesa, quanto quest'ansia era umile ed umida di pioggia questa sera. Perché vedi, di te mai di nulla ho dubitato. Ed io ho amato un fiore di bianco spino, nelle tue giunture, nelle tue ossa, nelle aperte contrade. Ma tanto, quel che ho amato era la tua giovinezza scorsa e remota come un canto nel canto imminente della sera. E tu, mia piccola rosa, iddio, l'ombra assidua più del tuo male ho amato, ma forse tu eri più di me di là dal vero e più di me vicina, e si scambiò la strana superficie tesa con l'effigie di una morta, con l'effigie di una morta, che calma e stanca sul fianco con l'effigie sua riposa. Oggi cammini con un sorriso empio e non so quale sia della mia morte il futuro, ma incomincia come un'eco un'altra giornata ed è superfluo e zoppico. Oggi mi avvicino al muro come le esili foglie di questa pianta. Il tuo sorriso è un sorriso oggi all'oscuro e contiene gli echi di ogni distruzione. Tu ti appoggiavi un momento sulla mia guancia. E tu la rosa, la rosa, la rosa. Ma non ti accomiatare così triste da me. So cose, so rose, so un novello nome. Verso essi si stringe eco pallida il tuo labbro ad un senso tuo veloce. Non so intenerirmi, solo più con me verso me, solo stesso. Vergine distesa, tu potevi tutto ricoprire. Te perduta, non sento gioia più viva che quella di starti seduto accanto come un ricordo, così come ombra ho murato una vigna in quel poco spazio che ode l'alito verde cupo del biondo corpo lento che spiga. Riesumata da una legge, oggi domando quale sia la vicissitudine è quieta questa composta su un ramo da una vana effigie per noia. La carne è chiara, titubanza che chiede, o una donna. Così le sagome alate volano, brillano per un comune lembo di un comune desiderio chiomato nell'aria. A un estremo lembo della tua veste arrossisco per un tremito già avvenuto nell'aria. Tu esisti, sei solo nell'aria e per te questo piccolo riverbero esiste. Non era la querugiola che si tramutava in pioggia. Ti tocco per un tuo lembo e già tu sei vana. Questa piccola storia d'amore ancora oggi nei tuoi occhi si legge e sei presso le ninfe una piccola dea silvana. Soffro, godo per te il piccolo tremito dell'ora e già il volgersi è un attendersi presso le radici. Il negozio ebbe la sua piccola ora, il suo simulacro stanco come tu dici. O era un riflesso, o era il pietoso nulla bagnato con piccole gocce di assenzio. Sento presso te, così forte, così vicino, il mormore della roccia che così spesso con sé ti trattiene. Ora che le piccole orme già fanno sera e tu sei così forte, con così forte desiderio a me vicina, le piccole gocce dell'acqua della pioggia trattieni. Tu, piccola mercante di gioia. E tu, mia piccola rosa, oddio. Il tempo della inumidita distanza, dentro l'anima ignuda, sia o no un ritmo sensitivo di una danza, ora so la stellante vicissitudine dei pensieri, bagnati dalla grazia. Qualcosa avanza senza nome, senza speranza di essere mai lugubre o qualcosa. Hai freddo trepido alle labbra. Quando nell'ineluttabile chiarezza del giorno qualcosa era così gentile, come un passo venuto meno, ora da altro confine, internamente di te riodo e non so quanto, o molto, o poco sia, tempo mi fu concesso di starti accanto, di esserti così prossimo e vicino. Vergine distesa, tu potevi tutto ricoprire. Non voglio ricordarmi più di te, di una scala ombrosa, e non mi raccontare più come meravigliosamente avvennero le cose. Le cicale che si attennero alla canicola che dilagava folle non erano più che un'ala del tuo sole, e presso te già era una fonte sul murmure dei fiori levigato accanto. Dietro una lastra di cristallo od una d'alabastro, una statua era la tua mano. E perché povere ossa furono prive di se stesse, dentro di esse una prova di ciò che era vero solo nel tuo tempo. Sulle vesti tue sbocciò una larva, e da rigo a rigo, esattamente vuoto, pianamente mosso da un fremito di ali, anche quando una quiete freme oppure si raggela, era una virtù di crescere che ora è ricca a stento. Gelide parvenze, la vita acre dei segni conosco. Non è finito lo spazio, io mi corrompo. Non so l'aurora quale il ladro del tempo rapido senza scampo, e murmure il suo sonno a una risposta assommo di una tomba nascosta che ti trasporta, e di trasporto in trasporto è il suono dell'essere felice, gioia non tersa, calma nel suo fondo. E se nel suo velo un corpo dietro un passo senza peso vede, triste io ti domando, i cieli sono sciupati, emersi dentro un raggio, nell'isola che li contiene è una rondine felice. Se rievoco, ricordo cos'era. Naufragano così poco casti i pensieri. Quel che era s'addensa nel buio delle colline. Ma non basta poca pena che con pace ho diviso, di là dai boschi dei morti, più veri dei vivi. Si aleggia un ritorno ai muti confini, è un desiderio di neve sui viali, sui giusti sentieri, più adorno, non veduto da alcuno, è il tuo viso nel nulla. Quel che chiedi non è di oggi o di ieri, mi riaggomitolo nei consumati giorni, più secco e felice di non essere qui o là più per sempre che altrove. Di rimando ho misurato uno sguardo, sempre presago, ho mirato quel che chiedi o che vedi. Odo sempre quel che opacamente con cura ti giunge. Ha mutato luogo, un'erma linea veloce di faggi. Se da una cima di pensieri si sfugge, mi fingo a metà aria, a metà rovo, così elementarmente semplice il tuo viso ritrovo, quel tuo gioco così vivo, così giusto, in un grido ai confini del viso di un povero. Naufraghi erano i gridi, i colori, matasse di nuvole sole si consumano fino al loro nuovo rifarsi nel raggio nuovo del sole. Sereno nel viso era scialbo il colore, accanto era accecante l'albore. Domani un cruccio che non sa di nulla, perché più addentro era un uomo che non sa d'altro se non del suo passo, del suo poco peso, dentro un colore com'era una volta quello di un povero confuso ai fantasmi con altro dire. Un altro uomo s'affaccia e l'avanza. Ma perché una stessa cosa non poteva essere così priva, così povera due volte d'amore? Una nuvola sull'orizzonte sfilaccia, altro sogno che non aveva più segni, cui lieve si agogne. Rivolta una donna ad un'altra, non era questa che una confusa rimembranza. Due volte che sfumi, se era una lontananza magica, un riso tenue era anche di lumi. Perché un povero cuore non poteva dire sì due volte, e non si ebbe più che una pietra che simulava la speranza. L'infingardo volto delle cose un riso aveva simile al rapido suo sguardo che invecchiava. Un volto era tagliente, lucido nel sole. Sperduto era anche un nome, e non si ebbe più chi lo chiamasse. In un dolce lume, dolce era una titubanza, pallida e severa era, e con essa la regione boschiva, languida pure che si duole su una guancia. Guarda di là, vedi chi ti veniva incontro con gioia fuggitiva. Il volto era un chiaro lume del sole, il sonno non più riletto e stanco era il suo nome. Dolcemente naufrago con esso sul fiore giusto, deliberatamente pago, un filo tagliente era, e dentro, in un grembo pallido, l'amore. So che non vale a nulla il vento che più non approda dov'è la tua voce nuova, simile a quella che è caduta dentro un astro nella veloce notte, era nella sua forma pura. La sua veste magica caduta dalle mani dell'oblio veloce nella tua sete intensa. Così era simile ed esigua nella sua luce la voce dell'amore. Thank you. Grazie. E dunque, la musica di Francesco Perissi con la collaborazione di Tempo Reale, la poesia di Lorenzo Calogero, le poesie le ho selezionato, ho fatto un lavoro io, diciamo, di combinazione e le ho intitolato Questa piccola storia d'amore, anche in prendendo un filone della stagione di Gianfranco Bedullà, che è dedicata a questo tema universale, che ringrazio, non il tema universale, ma Gianfranco Bedullà, il Teatro delle Arti e tutti gli amici. E gli attori con me, Rosanna Gentili, Matteo Zoppi, io sono Rosaria Lorusso. Abbiamo parlato di Calogero prima insieme a Caterina Verbaro, Stefano Giovannuzzi e Andrea Gigli. È stata una giornata illuminante per tutti noi e spero quindi che anche per voi sia stata un'esperienza con la poesia detta ad alta voce. Infatti questo lavoro è in buona misura il risultato di un laboratorio condotto da me, all'interno del quale ha partecipato anche Rosanna Gentile, anche Matteo Zoppi, che riprenderà il 18 marzo a cadenza più o meno bisettimanale il sabato. E, cos'altro? Nient'altro. Ora, di Calogero abbiamo parlato molto prima, è un poeta importante, molto importante, poco conosciuto, è un poeta calabrese, infatti questa serata rientra anche nel progetto Sud del teatro. E niente, ci auguriamo, parlandone con gli amici critici, eccetera, di poter dare una maggiore un impulso alla conoscenza e alla percezione della poesia di Calogero, anche per la sua natura, come diceva prima Caterina Verbaro, di poesia abbastanza assoluta, nel senso che il lavoro continuo, di scrittura continua di Calogero, poi rivela gli aspetti veramente più essenziali del linguaggio poetico, quindi, come dire, è un po' una poesia fondamentale, come altre poesie sono per altre lingue, mi viene in mente per il tedesco Hölderlin, per fare un esempio. Mi fermo qui, vi ringrazio ancora e sono felicissima della partecipazione a questa serata. Grazie mille. Gianfranco Bedullà. Ci sono anche i libri in vendita, due volumi pubblicati da Donzelli di Calogero e i libri, i saggi di Caterina Verbaro. Potete acquistarli qui al banco.